Quarto giorno di Simone Spezia. Di nuovo una buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti ad Effetto Giorno. È un'altra delle nostre puntate speciali che vanno in onda in questo periodo tra Natale e Capodanno, un'altra delle puntate nelle quali abbiamo deciso di approfondire un po' quelli che sono i fatti dell'anno, quelli più importanti, ma anche le storie, quelli che ci hanno incuriosito. Oggi andremo però su una vicenda veramente importante che ha caratterizzato, se vogliamo, tutto il 2014. Come ci siamo detti la settimana scorsa, sono forse tre gli eventi internazionali principali che hanno caratterizzato quest'anno. Uno è sicuramente l'avvento dell'ISIS sulla scena internazionale, del cosiddetto califfato, ne abbiamo parlato martedì. Un altro sicuramente è l'apertura di Obama su Cuba, quello che qualcuno ha definito il primo vero atto di politica internazionale forte da parte del presidente americano. E il terzo è senza dubbio la vicenda dell'Ucraina. Sono suoni che arrivano da quest'anno di rivolta, nel quale abbiamo assistito tra l'altro alla fuga del presidente, alla separazione della Crimea dall'Ucraina stessa. Abbiamo assistito alla salita della tensione tra la Russia e la NATO, una risalita della tensione che naturalmente ancora non si è allentata. Ci sono tante discussioni in merito, naturalmente, riguardano anche il nostro atteggiamento e l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Russia, tra chi sostiene che in questo modo noi ci stiamo con le sanzioni naturalmente solo danneggiando, e chi sostiene invece dall'altra parte che il danneggiamento vero lo sta subendo la Russia. Naturalmente gli effetti, ci sono stati anche degli effetti delle sanzioni su quello che è successo al rublo nelle settimane scorse, oltre che ovviamente il calo del prezzo del greggio. Però vogliamo ricostruire e vedere che cosa può succedere nei prossimi mesi. Dunque, cerchiamo di fare un punto sulla vicenda. Che cosa è successo in quest'anno, in questa vicenda che riguarda l'Ucraina, che in realtà è iniziata sullo scadere dell'anno precedente, del 2013. La nostra Laura Bettini. Tutto ebbe inizio il 21 novembre 2013, quando l'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych scelse di riavvicinarsi alla Russia invece di proseguire sulla via di un accordo di associazione all'Unione Europea. La protesta montò in pochi giorni e già all'inizio di dicembre 800.000 persone manifestavano per le strade di Kiev. La Russia tentò di comprare la fedeltà degli ucraini promettendo soldi e sconti sulle forniture di gas, mentre Yanukovych provava a sfollare con la forza Piazza Maidan. Arresti, leggi antiprotesta, spari sulla folla, tutto inutile. Il 22 febbraio il presidente riparò in Russia. I manifestanti presero il controllo del palazzo presidenziale, il Parlamento destituì Yanukovych e convocò nuove elezioni. La passionaria Yulia Tymoshenko fu liberata dal carcere. In un impeto nazionalista fu bandito in quei giorni il russo, che era seconda lingua ufficiale del paese, provocando il risentimento degli abitanti delle regioni dell'est a maggioranza russa. Di lì a poco, uomini armati filorussi presero il controllo dei centri di potere di Sebastopoli, in Crimea, che continuava ad ospitare la flotta russa sul Mar Nero, nonostante la regione fosse sotto il governo di Kiev dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. In due settimane la Crimea organizzò un referendum per l'annessione alla Russia. Il 97% dei votanti disse sì. Il giorno dopo, il 17 marzo, Unione Europea e Stati Uniti imposero le prime sanzioni a Mosca, ma Putin firmò comunque l'annessione della Crimea alla Federazione Russa. A Donetsk, Lugansk e Kharkiv, città dell'est ucraino, crebbero la protesta contro Kiev e il desiderio di seguire le orme della Crimea. L'Ucraina rispose lanciando un'operazione antiterrorismo contro i separatisti filorussi, accusando Mosca di foraggiarli con armi e uomini. Il 17 aprile a Ginevra, Russia, Ucraina, Stati Uniti ed Unione Europea dichiararono di avere trovato un'intesa per risolvere la crisi, ma sul campo continuavano scontri sanguinosi. In maggio i separatisti filorussi di Donetsk e Lugansk svolsero un referendum per l'indipendenza non riconosciuto dalla comunità internazionale. A fine maggio l'Ucraina elesse presidente Petro Poroshenko, che solo un mese dopo firmò l'accordo di associazione con l'Unione Europea, l'origine di tutta questa crisi. Secondo l'ONU, il conflitto in Ucraina ha provocato oltre 10.300 feriti e più di 4.600 vittime, tra cui i 298 passeggeri dell'aereo malese abbattuto il 17 luglio nello spazio aereo ucraino. Da chi? Non è ancora chiaro. Un jet ucraino, un missile dei separatisti? In ogni caso, poco dopo, Stati Uniti e Unione Europea hanno inasprito le sanzioni contro la Russia. Nei mesi, l'unica tregua tra ucraini e separatisti che ha retto è stata quella firmata in settembre a Minsk, in Bielorussia, dopo la quale la NATO segnalò un significativo allentamento della morsa dell'esercito russo sull'Ucraina. Nelle ultime settimane, però, i militari russi sono tornati a premere e a quanto pare anche a superare i confini ucraini. Mentre l'ultimo round di colloqui a Minsk, quello della settimana scorsa, si è concluso con un nulla di fatto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E c'è in studio con me Antonella Scott del Sole 24 Ore, che tra l'altro è stata inviata in Ucraina e anche nelle zone dei cosiddetti filorussi in quel periodo. Antonella, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei innanzitutto un aiuto da parte tua nel racconto di quei giorni e di quella piazza, perché tanto si è detto, soprattutto in quelle ore, di quanto questa piazza fosse guidata anche da forze di estrema destra, per esempio. Vorrei capire che idea ti sei fatta sul campo di quello che hai visto e di quello che sei riuscita a raccogliere. Sì, è vero, la piazza, il Maidan, cioè la piazza dell'indipendenza di Kiev, è stata il luogo attorno a cui è il centro di tutta questa crisi che, appunto, come ricordava Laura, è iniziata a novembre dell'anno scorso, quindi ci ha accompagnato in tutto questo anno, riuscendo sempre di più a, quando ogni volta si sperava di poter arrivare a una composizione, una soluzione, invece è sempre successo qualcosa che ha aggravato la situazione, per cui appunto siamo passati dal crescendo sul Maidan in cui all'inizio era iniziata una protesta che era una protesta contro il governo Yanukovych per avvicinarsi all'Europa. Piano piano si è radicalizzata, è diventata sempre più un desiderio di cambiamento di regime e si è anche un po' discostata da quelli che erano i leader dell'opposizione che faticavano, ci ricordiamo, nei primi giorni, nelle prime settimane drammatiche della storia a Kiev. Con la fuga di Yanukovych e quindi l'insediamento di un nuovo, quello che a Mosca chiamano il nuovo regime, la giunta, si è in qualche modo per un certo periodo la piazza non ha voluto abbandonare il Maidan, ed è rimasta proprio per voler esigere, per controllare che le nuove autorità realizzassero quelle che erano le richieste, e quindi in sostanza poi in realtà non era più tanto un volersi avvicinare all'Europa, però un allontanare lo spettro del dominio russo, per così dire. Anche questo, sì, e quindi sempre di più un'Ucraina sempre più divisa, che a piano piano c'è stata poi appunto, ricordiamo, a marzo l'istacco forzato, violento diciamo, non in termini, per fortuna, letteralmente violento, però della Crimea, e poi la drammatica, piano piano è nata la rivolta delle regioni dell'est, e quindi lì si è realizzata la vera spaccatura dell'Ucraina. Senti Antonella, anche l'opinione pubblica europea, quella italiana naturalmente, si è divisa molto sulla vicenda dell'Ucraina. Io vorrei che ci aiutassi a capire un po' anche la dimensione culturale di tutto questo, nel senso che da quel che sappiamo e da quel che abbiamo letto, i russi sono abituati a considerare l'Ucraina di fatto un pezzo del loro territorio e quindi da parte di Putin probabilmente accettare tutto questo, accettare questa rivolta, accettare questo distacco era molto difficile anche a livello di opinione pubblica. Certo, infatti alla fine il presidente è riuscito a avere l'appoggio dell'opinione pubblica anche a aumentare la sua popolarità, che ormai ricordiamo è sempre tra il 70-80%, proprio perché ha fatto leva su questo. Per lui, per tantissimi ucraini, però di lingua russa che vivono in Ucraina, e per la maggior parte dei russi, davvero la Crimea non era mai in realtà allontanata, era il posto dove vivevano le famiglie dei marinai della flotta del Mar Nero, aveva una giurisdizione particolare, e questo un po' vale anche per queste regioni, in realtà non le intere regioni di Donetsk e Lugansk, però una parte di queste, quelle che ora sono in mano ai diciamo i separatisti che si rifanno a Mosca. È qui che si è verificata la vera spaccatura, questo per quanto riguarda l'Ucraina. Per quanto riguarda noi, è vero che questa crisi è diventata molto anche suscita un dibattito molto intenso anche in Italia e in Europa, ed è diventato un dibattito non più tanto sull'Ucraina, ma pro o contro la Russia, pro o contro Putin. Anche perché siamo nel cuore dell'Europa. Ti chiederei una proiezione, posto che in questi ambiti è sempre estremamente difficile, anche perché bisognerà vedere quali sono le mosse, che cosa succederà, perché in questo momento la Russia subisce, e Putin in particolare, subiscono una pressione fortissima, una pressione dei mercati che sì, è molto violenta, e che è dovuta in parte naturalmente alle sanzioni che stanno iniziando a far sentire i loro effetti economici sulla Russia e su quella borghesia che Putin l'ha sempre sostenuto, e dall'altra parte naturalmente il prezzo del greggio, che come sappiamo, essendo in costante calo, pesa sui conti della Russia medesima. Ti chiederei una proiezione su questo 2015 per quanto possibile, su come potrebbe evolvere almeno nei primi mesi questa crisi. Sì, questa è davvero la grande domanda, perché appunto una crisi che era nata nel Maidan, la questione dell'Ucraina e l'Europa, ora invece è una crisi che potrebbe, c'è chi ritiene che possa davvero rischia di trascinare, di far esplodere l'economia invece russa, quindi ormai stiamo parlando solo della Russia e della possibilità di Putin di gestire il sostegno che per ora l'opinione pubblica continua a dargli. Però cioè potrebbe minare alla base il potere di Putin questa crisi nata nel novembre del 2013? C'è questo rischio, perché se si prolungherà nel tempo, è soltanto questa la questione, se la Russia avrà risorse sufficienti, visto che ora sembra abbia scelto di superare questa crisi isolandosi sempre di più, quindi facendo conto solo sulle proprie risorse e con queste sollevare il rublo, dare alle sue imprese, alle banche, i finanziamenti che i mercati internazionali non danno più a causa delle sanzioni, e cercare di mantenere un tenore di vita che è quello che Putin ha dato alla sua alla classe media, diciamo, che ormai rispetto alla grande crisi del 98 invece noi abbiamo di fronte una popolazione che è abituata ad avere quello che si è guadagnata, che è stato possibile con i primi 10 anni di Putin, quindi viaggi all'estero, acquisto di beni di consumo che ancora sono per la maggior parte importati. Quindi se questo verrà messo in discussione nel lungo periodo, nessuno adesso arriva a dire che Putin possa essere veramente in pericolo, però insomma è sicuramente a rischio il modello, quello che lui ha voluto dare, su cui ha basato la sua forza finora. Grazie ad Antonella Scott del Sole 24 Ore per questi chiarimenti, per questi approfondimenti e per questa analisi. Noi ci fermiamo per un attimo, ci ritroviamo subito dopo, parleremo dopo questa pausa di precari della scuola, parleremo di case popolari a Milano, un altro caso di quest'anno, e poi ci occuperemo anche di Valentino Rossi. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per questa seconda parte della trasmissione. Vogliamo parlare adesso di scuola, è stato un altro naturalmente degli argomenti dell'anno, la presentazione del piano del governo, la buona scuola, la consultazione, ma soprattutto l'annuncio che riguarda l'assunzione dei precari, la fine di una vera e propria malattia, per così dire, del sistema scolastico. Abbiamo in studio con noi la nostra Maria Piera Ceci. Allora, buongiorno, Piera, Simone. Buongiorno. Sì, noi usiamo poco spesso la parola cambiamento epocale, però in effetti in questo caso forse si può usare questa espressione, perché quella del precariato scolastico è davvero una malattia, come l'hai definita tu, da sempre, no? Nelle nostre scuole, peraltro a svantaggio non solo dei nostri figli che ci vanno a scuola, ma anche a svantaggio di questi migliaia di insegnanti che ogni anno devono concludere il loro contratto a giugno per riprendere poi a settembre. Quelli più fortunati almeno riprendono a settembre, con un sacco di problemi, non ultimo quello che per esempio d'estate lo stipendio non lo prendono. Dicevamo un cambiamento epocale, l'aveva già annunciato, come accennavi tu, a settembre Renzi con la buona scuola, presentando questa sorta di riforma che lui non vuole che si chiami riforma, ma progetto per la scuola che verrà. Presentando la buona scuola l'aveva detto, basta con la supplentite. Io partirei proprio da qua, così facciamo la cronistoria di questa vicenda, sentiamo Renzi. Noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Ecco, non è poi avvenuto questo, come hai raccontato tu nei giorni scorsi. In realtà gli scatti di merito pare che siano saltati da questo grande progetto della scuola, ma insomma torniamo sui nostri precari. Aveva annunciato stop alla supplentite, assumeremo i precari. In realtà poi non è che il governo abbia preso una sua iniziativa così tanto per accontentare e per finalmente porre fine a questa malattia, come la definivi tu. In realtà il governo sapeva bene che sarebbe stato costretto da lì a breve a farlo d'obbligo. Perché? Perché il 26 di novembre, una data davvero importante per la scuola italiana, il 26 di novembre la Corte di Strasburgo ha stabilito con una sentenza che non è assolutamente possibile, non è lecito assumere tutti gli anni gli insegnanti per poi, con un contratto annuale, per poi licenziarli appunto a giugno. Tant'è vero Piera, che è proprio sulla base di questo programma di assunzione dei precari che il governo conterebbe, come dire, di aggirare questa sentenza o quantomeno rispondere a Bruxelles, no? Assolutamente sì. In particolare si tratta dei precari che abbiano avuto un incarico annuale per più di 36 mesi, quindi 3 anni. Si tratta di circa 150.000 persone, stiamo parlando di un piano assunzione davvero imponente. Senti, abbiamo sentito la voce del governo, quella del Presidente del Consiglio. Allora, vogliamo provare a sentire invece che cosa dicono i precari? Allora, i precari ovviamente, insomma, per loro insomma, finisce un incubo, per almeno 150.000 di loro. È vero però che il problema non si risolve così, cioè purtroppo, come spesso accade nel mondo della scuola, anzi come sempre accade nel mondo della scuola, è in arrivo una pioggia di ricorsi, perché il problema non si chiude qua. Che cosa succede? Che 150.000, probabilmente 148.000 in realtà, dice il governo, sono dentro, i soldi ci sono nella legge di stabilità. In realtà ce ne sono almeno altri 100.000 che non hanno avuto il contratto annuale per 36 mesi, quindi per 3 anni consecutivi, ma che comunque sono anni e anni che nelle nostre scuole ci sono, coprono questi buchi, insomma insegnano ai nostri figli in qualche modo, e quindi vogliono rientrare in questa sorta di sanatoria. Non solo quelli che sono dentro, che saranno dentro comunque con il nuovo anno, vogliono vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità, cosa che invece con questo piano di assunzioni è riconosciuta soltanto in parte. E poi ci sono gli stipendi estivi, cioè tutti gli anni che hanno lavorato e da giugno a settembre sono stati a casa, anche con il patema d'animo poi di tornare in cattedra a settembre, vorrebbero vedere riconosciuto questo periodo. Quindi i sindacati annunciano una pioggia di ricorsi. Sentiamola magari, una voce di Marcello Pacifico, del sindacato ANIEF. E ne arriva una pioggia di ricorsi, anche perché chi viene stabilizzato potrà comunque citare lo Stato italiano per inadempienza rispetto alla normativa comunitaria e quindi chiedere comunque un risarcimento danni. Quello che si apre è dunque un buon anno per la scuola? È un anno sicuramente buono per migliaia di precari che da anni hanno svolto il loro servizio come supplenti nelle nostre scuole e finalmente potranno essere stabilizzati, ma è un anno ancora difficile perché nella legge di stabilità purtroppo abbiamo registrato ulteriori risparmi nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quasi 1,5 miliardi di euro. Devo purtroppo ricordare che questo blocco degli stipendi e dell'indennità di vacanza contrattuale prorogato fino al 2018 farà perdere nelle tasche appunto del personale della scuola più di 53 euro, ma questo dal 2006, sono quasi 9.000 euro persi in 13 anni. Occupazioni, resistenze, scontri, violenze, ve l'abbiamo raccontato spesso nel corso di quest'anno e ci riferiamo in questo caso alle vicende delle case popolari, in particolare delle case popolari di Milano, dove, come dire, questo problema si è sentito in maniera più forte, insomma è uscito anche più sui giornali, è uscito anche più mediaticamente, si è imposto con maggiore attenzione, tra l'altro con il varo di un programma di sgomberi piuttosto serrato e piuttosto programmato. Naturalmente abbiamo cercato di addentrarci in questa vicenda e cercare di capire un po' di più come funzioni, perché dentro tutto questo si mischiano tante cose, naturalmente delle lotte politiche, a voi valutare se abbiano dignità oppure no, se le ritenete opportune oppure no, e dall'altra parte vicende che hanno a che fare anche con la criminalità, naturalmente vicende che hanno a che fare con occupazioni abusive che durano da anni e gente che magari almeno nella sua testa legittimamente ritiene di aver diritto alla casa nella quale abita. Con la nostra Raffaella Calandra facciamo il punto. Raffaella. Ciao Simone, sì, la battaglia della casa qui a Milano è stato uno degli argomenti di sicuro più complessi ed è per questo che io ho deciso di dedicarti una puntata di Storiacce, perché si mescolano, c'è innanzitutto una guerra tra i vecchi e i nuovi abusivi di questi palazzoni nelle periferie di Milano, dove il degrado sociale si mescola con una strumentazione da parte della malavita e da parte di un racket che gestisce appunto le occupazioni delle case, per cui sono andata a vedere queste case, sono andata a cercare di capire qualcosa in più in questi ballatoi dove le porte sono a volte coperte da lamiere di ferro per evitare queste occupazioni, ma dove però poi nel cuore della notte succede che queste porte vengano sfondate e delle donne per lo più vengano lasciate come avamposto delle occupazioni, perché sappiamo bene che una donna, soprattutto se incinta o se con bambini piccoli, necessariamente deve avere un trattamento diverso rispetto alle altre persone. Tutto questo fa sì che si crei una situazione di disagio, di malcontento in queste periferie, esplosa poi negli scontri che abbiamo visto in questi mesi nelle periferie milanesi. Ci sono stati anche molti casi in cui le occupazioni sono diventate seriali, celebre è diventata la storia di questa Zarina, una giovane donna che aveva nel suo passato ben 12 occupazioni diverse, perché era strumentalizzata, utilizzata per andare a fare appunto da sfondamento, possiamo dire, in queste case. E c'è poi dall'altra parte l'ansia, la preoccupazione delle persone che legittimamente abitano in questi palazzoni, che casomai hanno la paura, soprattutto le persone anziane, di trovarsi la casa occupata nel caso in cui vadano in ospedale per un periodo prolungato. Una miscela esplosiva che a volte riceve anche una strumentalizzazione veramente molto forte, dove ci si è a volte organizzati anche con delle sentinelle, con delle ronde all'interno di questi palazzi, ma a volte c'è anche chi tra queste sentinelle ha invece fatto un po' il doppio gioco. Questo è quello che ho raccolto in questa che io definisco non solo la battaglia per la casa ma anche la guerra tra vecchi e nuovi abusivi, perché ci sono anche tante persone che quella casa l'hanno occupata sempre abusivamente, certo, ma molti anni fa, e quindi a questo punto ritengono invece di essere a norma. E c'è anche la componente poi di scontro anche etnico, sì, anche questo è entrato. Certo, i vecchi come dire occupanti italiani contro i nuovi occupanti stranieri e per lo più rom, anche se il primo gruppo di occupanti numericamente sono i nordafricani. Hai raccolto un po' di voci in questo tuo giro tra le case popolari milanesi, ascoltiamole. Le porte che vengono sfondate in genere sono già protette dall'aler, c'è una porta in più di ferro, vengono sbarrate. Se uno si deve assentare per un po' di tempo, magari in ospedale. Il fatto che siano spesso delle donne. perché hanno i bambini. Almeno una vicina che abita lì a fianco mi ha detto che hanno buttato intorno, sarà stato in serata perché sono arrivata alle 9 e la porta di acciaio era tutta per terra. Hanno già provato ad aprirla questa qua, la nostra. Questo è stato un rumore, un casino infernale, abbiamo chiamato la polizia, sono venuti, li hanno sbattuti fuori, però l'aller non affitta. In alcuni palazzi qui della zona si sono organizzati anche con un guardiano interno, sì. Diciamo. C'è ed è di fronte a noi, dove oltretutto è quello che gestisce il giro, si può dire. Cioè tu hai bisogno di una casa, vai da lui, e poi oltretutto questo signore non è ben visto perché porta gente non tanto raccomandabile. Praticamente gestisce anche il giro qui di fumo. Sono passata abusiva anch'io, ma non mi sento abusiva. Che l'ho dovuta perdere, sai perché? Perché ho occupato la portineria. Ho vissuto in portineria, mio padre è morto dentro la portineria. Senza dignità, senza alloggio. Ma io non ho mai sfondato. Ho pagato per entrare. A chi ha pagato? A quella che c'era prima. Gli ho dato un affitto, ho pagato dei soldi. Ma questa è una casa popolare, non era una casa privata. Lo so tesoro, ma se no non fai così non ottieni niente. Quanto gli ha dato? Una bella cifra. È il momento delle storie di sport in questo caso dall'anno che verrà. Oggi il nostro Dario Ricci ci parla di Valentino Rossi. È stato più bravo e ha vinto, però secondo posto non è affatto male. Mi sono proprio divertito. Davvero aveva bisogno di tornare a divertirsi il dottore, il che, se ti chiami Valentino Rossi, equivale a tornare a vincere. E allora, a 35 anni, il fenomeno di Tavuglia, dopo gli anni di magra in Ducati e il problematico ritorno in Yamaha, quest'anno è tornato a riassaporare l'aria che si respira sul gradino più alto del podio. Due gran premi vinti nel mondiale MotoGP, secondo posto in classifica alle spalle del rivale e amico Marc Marquez, al bis iridato, che di certo nel 2015 punterà a far tripletta. Valentino permettendo, perché quest'anno si è divertito certo, ma vuoi mettere a conquistare il decimo mondiale in carriera a 36 anni? Perché a vincere da vecchietto, sgommando su due ruote, davvero c'è ancora più gusto. Dario Ricci, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Effetto Giorno. I nostri contatti, come sempre, l'email effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. I ringraziamenti, Laura Faggini in assistenza in redazione come sempre, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 13:15.